voglio comunicare una cosa ai vostri radioascoltatori. Luciani è molto amato dai gay. Sto qua, beccate questa, Luciani. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cari Cruciani e Parenzo, dall'Inghilterra sono riuscito a convertire un giovane ingegnere alla zanzara e sentite quali sono le prime domande che gli sono venute in mente. Vabbè, innanzitutto, come cazzo fa quel cesso a stare con quella gnocca? E poi Natani. Sì, Natani. E quell'altro di destra, come cazzo ha 50 anni? Non è possibile. Allora, vogliamo cominciare a rispondere a questo signore, Davide? Ma cosa vuoi rispondere a questo miserabile? Ma no, invidioso, ma perché tutti ma mi cosa... Invidioso può essere, invidioso... Ma questo qui, qua, se si guarda allo specchio si prende paura, questo qua. Ma è un nuovo ascoltatore da Londra, non puoi ma subito... Ma non me ne frega niente, non te ne frega nulla. Per me può essere anche da Honolulu, questo è un cretino, ma perché? Perché? Un onanista, uno che si fa le pipette davanti allo specchio. Ma scusa, specchio, ha detto come fa un cesso, e questo è discutibile, ovviamente. Ovviamente, come Parenzo a stare con quella, con quella gnocca di Natania. Sì, quello intanto primo è un complimento. Si deve permettere di definire così. Perché mia... Parlasse così di sua sorella, della sua... quello se ne adesso, stallo, scusami, quello è un miserabile. Quello è un miserabile. Ma la parola non gnocca. Non mi posso arrabbiare perché il medico mi ha fatto... Ma chi è sto medico? Te lo presenterò domani. No, ma no. Domani sarà una grande serata. Ti presenterò, ti metterò in collegamento il medico. Che no, il cardiologo, perché altrimenti cardiologo, è tutto finito. Il cardiologo. Dunque, non ho capito. Mi ha detto che non mi posso arrabbiare. Sì, ma la parola gnocca, non riesco a capire qual è. La parola miserabile. Lui non si deve permettere. Gnocca. Questo personaggio non si deve permettere neanche di neanche di pensarla, Natania, non deve neanche... Ma cioè, dai, ma stai esagerando! Pensiero, no, ma questi faccia... Guarda, questo qui, poi me lo immagino davanti allo specchio, che si guarda, mamma mia che mostro, chi è? Sono io, ecco è lui, lui si guarda allo specchio. Scusa, ha semplicemente detto, come faccio io ad avere 50 anni? E vabbè, d'accordo, questo. Amico mio, me li porto più o meno bene. Poi ha detto che la tua compagna è gnocca, non mi pare, se me dicono della mia compagna una gnocca sono contento, invece sono tu no. Amici, ma non si deve permettere lui questo. Non si deve permettere lui. Schifoso, miserabile, uomo delle caverne, come parla delle donne? Come si permette? Ma perché dire gnocca una, voi è diventato pure sessista. Ma che roba è? Mamma mia, quanto macchiappa Natania. Ecco un altro. E questi, devo dirti che questi della regia, Poli, Bucciero, la nostra, questi qui sono peggio ancora. Questi qua che mandano questi audio a tradimento. Ma guarda, che io ti salvo, perché ce ne sono alcuni su Natania. Che tu nemmeno te ne puoi immaginare. Guarda, questo va abolito, questa cosa qua. Non... Va abolito. Va chiuso, va abolito. Allora. Lungo la statale che da Brescia porta a Verona, all'altezza di Sirmione, ore 22 di ieri sera, due donne e i loro tre figli stavano viaggiando tranquillamente. All'improvviso arriva un'auto guidata da un ragazzo albanese di 21 anni che travolge, ubriaco, che travolge la macchina. Tragedia. Muore una donna e un bambino di 10 anni. E fin qui cronaca, no? Cosa vuoi dire? Cronaca. No, aspetta, non lo dico io. Una roba incommentabile, una no, tragedia, ma cosa vuoi dire? Aspetta, non sono io che commento. Io figurati se vado a commentare il fatto che un albanese ubriaco, ci sono italiani ubriachi che fanno gli incidenti, uguale, stessa cosa, eccetera. Non è questo. Interviene l'onorevole Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e segretario della Lega Lombarda. Cosa dice questo statista, questo novello Churchill? Cosa lo dice? Conosci, dottor Grimoldi? Sei a conoscenza purtroppo dell'esistenza, dottor Grimoldi? Sì, purtroppo lo conosco. Purtroppo lo conosci. Purtroppo adesso, lo conosco, no, leggi, io ti leggo testualmente. Grimoldi. Adesso pretendiamo che lo Stato e il governo, con le loro massime autorità istituzionali, dalla Presidente della Camera al Ministro per i rapporti con il Parlamento, si stringono intorno a questa famiglia distrutta, come hanno fatto la settimana scorsa con la vedova di Emmanuel, e partecipino al funerale di questa madre e della sua piccola, esattamente come hanno fatto con il profugo ucciso a Fermo. Altrimenti dovremo pensare che per la Boldrini e la Boschi le vite di una madre e della sua bambina valgano meno di quella del profugo ucciso a Fermo. Che miserabile proprio. Cioè, che vuoi dire? Scusa, spiegami, non, che non c'entra una mazza, dici? No, no, voglio dire quello che voglio dire. Ovviamente non c'entra nulla. Sarebbe come se il governo dovesse andare ogni volta che c'è un incidente stradale, una tragedia come quella. Dove sono morti. Ubriaco, però, questo signore. Ubriaco, siamo d'accordo, ma è una tragedia. Che è un incidente stradale. È un incidente stradale con una tragedia. Adesso non è come il fatto che è ubriaco l'albanese, quindi non ci sono morti di serie A in serie B. Questo Grimoldi. Paolo Grimoldi. Paolo Grimoldi, vabbè, io non sentivo la mancanza fino a poco tempo. Però la notizia che arriva oggi, caro David. Sì, lo so, è questa roba dei 5 Stelle, si capisco che cosa, sia molto interessante. Cosa 5 Stelle? Non lo credo, che c'è dei no, 5 Stelle? No, che la Lombardi lascia ma il direttorio. Ma che cazzo me ne frega a me? Ma secondo te, capisco che tutti ne parlano in tutti ma secondo te, io sono interessato al fatto che la signora Lombardi, la cui esistenza in Italia è conosciuta solamente dai giornalisti, detto con tutto rispetto ovviamente alla signora Lombardi, ma è così, ha rotto con la Raggi. E dunque il direttorio dei 5 Stelle a Roma non esiste più. Secondo te questa notizia mi interessa? Mi sono appassionato a questo tema dei 5 Stelle. Dinamiche interne ai 5 Stelle. Va benissimo, ci sono persone che se ne occupano e giustamente se ne devono occupare. Allora vorrei parlare forse di povertà, bravo, finalmente. Non volevo parlare di questo. Povertà assoluta, oltre 4 milioni di persone. Sentiamo sociologi, politologi, cerchiamo di approfondire questo. Ma la povertà c'è sempre stata e ci sarà sempre. Parliamo del disegno di legge povertà. Che me ne frega della povertà. Il reddito di inclusione, tanti temi forti. No, possiamo coinvolgere Barisoni, Minoli, no? No, che no. Minoli, che sei fatto? No, fermo. Allora, la cosa... Coinvolgiamo le grandi menti anche. No, ma che appunto, no. Fermo. Cioè, devo stare la fermo. Moglie... Fermo. Ah, nel senso, fermo. La moglie si corregge. Fermo. La moglie si corregge. Vabbè. Perché alla fine le cose che noi diciamo... Noi non abbiamo mai avuto certezza su questa cosa qua, abbiamo sentito delle persone e dunque tutti quelli che mi hanno rotto i coglioni quando abbiamo sentito la testimone che loro dicevano questa è pazza, questa non è credibile, anche scrittori prestigiosi che hanno detto avete visto c'è qualcuno che mette in dubbio che questa qua sia, che il morto sia stato aggredito da quello di Fermo, da Mancini. A me non mi interessa nulla di queste cose qua, voi dovreste essere attenti ai fatti. I fatti poi emergono e dicono che cosa? Che la moglie, cioè la signora, per carità, a cui va tutto il rispetto, quella che piange continuamente in chiesa, fin dal primo istante ha pianto giustamente per la moglie del marito, ha cambiato versione o comunque ha corretto la sua versione e ha ammesso, forse perché potevano accusarla di falsa testimonianza, di calunnia, fu Emanuele a scagliare il paletto, capito? Mio marito prese il paletto dalla strada dopo le offese e colpì Mancini. Ecco, a me poi non interessa come andrà a finire il processo, il pugno c'è stato, quello è morto, deve rimanere in galera, non mi interessa. Fatto sta che la signora Ciniere, come diavolo si chiama, scusami se lo dico così, non lo dico per pigliare per il culo, ti dici sempre che io piglio per il culo i nomi degli immigrati. Ciniere, benissimo. Sostanzialmente conferma quello che hanno raccontato i testimoni. Cioè che è stato il signor Emanuel, quel poveraccio morto, a prendere un palo dopo essere stato insultato, dopo essere stata insultata lei, e a dare dei colpi a Mancini. Poi c'è stata una rissa, quell'altro se n'è andato, quello è tornato. Non mi interessa, quello per me può restare in galera anche 40 anni. Ma sentiamo qualcosa, dai, non è che possiamo parlare sempre noi, eh? Vittorione Feltri che giustamente dice chiudere Palazzo Madama e fare hotel a 5 Stelle. Una volta avevo proposto, no, ti ricordi, giù la Claire, chiudiamo tutto, il Senato va chiuso, blocchiamo tutto e facciamo una fondazione. Lui dice un hotel a 5 Stelle, va bene anche l'hotel a 5 Stelle, per carità, eh. Però hotel 5 Stelle con guida, no? Con guida, ci sono delle stanze bellissime lì al Senato. Bravo. Giusto, metterlo a profitto, hotel a 5 Stelle con guida, qui c'è stato il Senato. No, non chiamarlo Hotel 5 Stelle perché poi sembra che sia quello dei 5 Stelle del movimento. No, ma in questo caso tu dici che meglio di no, ma 6 Stelle. Si crea confusione. 6 Stelle, 6 Stelle. 6, ecco, Luxury. Guarda, il nuovo Senato è una cosa addirittura ridicola. Era preferibile chiudere completamente Palazzo Madama, trasformarlo in un hotel a 5 stelle, così non avrebbero rotto le balle neanche i grillini. Dopodiché lo Stato avrebbe incassato quattro soldi e il nostro sistema probabilmente non ne avrebbe sofferto. Le regioni sono delle associazioni a delinquere. Le regioni, d'altra parte, sono associazioni per delinquere e magari si limitassero a rubare le mutande. È che invece ti rubano il portafoglio e questo è un po' più grave. Allora, a proposito invece della questione dello scontro tra i treni in Puglia, ovviamente ci sono dei parenti delle vittime che, lo dico con tutto il rispetto, per carità, che le sparano un po' grosse, diciamola tutta, le sparano un po' grosse. Per esempio, un signore che si chiama Castellano, che è il fratello di una vittima, credo che sia anche un giornalista alla Gazzetta del Mezzogiorno, dice che è un delitto di Stato. Ora, va bene tutto, per carità, lo Stato inefficiente, il binario unico, che alcuni dicono che è sicuro, ma poi bisogna ovviamente che le comunicazioni funzionino bene, la tecnologia funzioni bene, perché altrimenti, se il binario è unico e la tecnologia funziona male e ci vuole ancora la paletta, quello che dice verde, rosso, eccetera, eccetera, siamo all'età della pietra. Comunque, il delitto di Stato è un delitto di Stato perché sembra quasi organizzato, perché in definitiva nel 2016 è impossibile credere che esiste una linea con binario unico, che può essere anche normale, però la grande verità è che ci sono delle piccole aziende anche in Puglia che ti bloccano i treni a 2000 metri, a 3000 metri, a 4000 metri. Ci sono tutte le cose più diciamo moderne da poter fermare i treni a qualsiasi velocità. Eh sì, non so che cosa intenda, però delitto di Stato, quasi organizzato, adesso, con tutto il rispetto, mi pare un po' troppo. Ma mi importa una sega a me di traffico, sono in bosca a cercare... La Zanzara. Allora, devo dire la verità che su questa vicenda di Fermo è eccezionale, per esempio, D'Agostino che dice: portate i sali alla Boldrini e a Don Vinicio. La vedova di Emmanuel cambia versione. Ero sotto shock e non capisco bene l'italiano. Perché così ha detto: ero sotto shock e non capisco bene l'italiano. È stata lei con il marito e l'amico insultati ad aggredire Mancini, che ha cerchiato, avrebbe sparato il cazzotto. Poi tra l'altro questa cosa di quello là militante dell'estrema destra è tutto da vedere, perché per esempio c'è una foto che lo ritrae con i 5 stelle locali, cioè questo qua era uno squinternato, uno che si appoggiava a tutti i movimenti, diciamo, rivoluzionari, quelli che vogliono fare casino, fossero di estrema sinistra, di estrema destra, un ultra che non ha un'identità politica ben precisa, Vabbè ragazzi, andiamo, numeri di telefono, vai, numeri di telefono. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, direi di andare a Salerno, Alfonso, vai, Alfonsino, vai. Buonasera. Dimmi. Senti, mi sono incazzato ieri quando avete telefonato alla signora Provenzano, una vecchietta che non lo conosceva neanche, tra l'altro, quel Provenzano che è morto. E mi chiedevo come mai non l'avete chiamata quando Provenzano era ancora vivo. Ma non ho capito bene la tua critica, scusami Alfonso. La mia critica è questa, che non bisogna scherzare con quelle persone che sono morte, diciamo. No, vanno rispettate a prescindere. Io non ho nessun rispetto per Provenzano che è morto, francamente non me ne frega un cazzo. No, guarda, voglio dirti la verità, che Provenzano sia morto non me ne può, a parte che era già morto da tempo, perché era 41 bis e tombato. Non telefoni a Rina, magari, che ci sarà. Guarda che l'abbiamo già fatto, forse te lo sei dimenticato. Adesso a fare una roba del genere. Va sono alcune persone, caro ascoltatore, per le quali anche dopo la morte non si può provare pietà, questo è il mio pensiero. Ma guarda, io condivido il tuo pensiero, però voglio dire, lui con la morte ha pagato tutti i peccati che ha fatto. Ma non mi interessa, ma non è dei preti noi, chi se ne frega. Io scherzo su tutto. Non è che bisogna che vai là e ti metti a sfottere una vecchietta di... Ma io non ho sfottuto niente, nessuno. Io si può scherzare e ridere, anche noi scherziamo su tutto, sulla morte, sulle tragedie, non ce ne frega niente. Finché non qualcuno non ci blocco, finché qualcuno non ci porta in tribunale per vilipendio a qualche cosa, non me ne può fregare niente. Ma li portano in tribunale i mafiosi al massimo li portano sottoterra. E vabbè, va sottoterra, sono contento che sia andato sottoterra, non capisco qual è il problema. No, vi portano sottoterra, a te è pure apparenza. Vabbè, prima o poi moriremo tutti, amico mio, anche tu creperai, prima o poi. Sì, sì. Però dopo di te. Ma che ne so, magari crepi prima, che ne sai, scusa. Magari crepi prima, speriamo che crepi. Ma come, quanti anni hai, scusa? Ho 50 anni. E anch'io ho 50, perché devo crepare prima io, scusa. Ma moriamo insieme, dai, così nessuno di due si incazza. Vabbè, Enrico, Modena, dai. Pronto, ieri sera ho sentito, io sono abbastanza d'accordo con Parenzo su alcune cose. Sì, sì. Però quella di ieri sera mi è sembrata un po' una cosa. Quale? Quale? Una boiata, quella del distruggere la casa di Hitler o quello che era la casa. Ma non è una mia opinione quella. Vabbè, eri d'accordo, dai, su. Sì, ma non è una mia opinione, il governo austriaco che vuole abbattere la casetta non è una mia opinione. Ho capito, ma sei d'accordo su questa roba qua? Hai detto benissimo. Totalmente sì. Benissimo, Enrico dice che è una puttanata, e devo dirti la verità, ci sono una marea di messaggi che sono arrivati tutti contro di te, cioè perché facendo... Ma no, adesso io non voglio essere contro nessuno, io dico semplicemente che bisognerebbe tirar giù anche il Colosseo per i cristiani che ci sono morti dentro, bisognerebbe tirar giù le chiese per l'Inquisizione. Ma cosa le dice il cervello? Dammi del tu. Ma che cosa? Se mi devi offendere, dammi del tu. Ma qual è il paragone con il Colosseo? Ma mi spiega l'intelligenza? No, della no, ma è un paragone detto. Assolutamente calzante, assolutamente. Ma no. Ci sono pellegrinaggi di persone che vogliono ancora e che ricordano che è giusto che i cristiani vengano divorati dai leoni? Vi risulta che ci sia un pellegrinaggio di morte delle persone in modo... Ma ragazzi, siamo in psicopatia. Ci sono dei turisti che vanno a visitare il Colosseo. Ci sono dei turisti che vanno lì per omaggiare il fatto che però, i leoni divorassero i cristiani. Beh, certo, in qualche modo andando al Colosseo. Ma che dite? Come no? Abbiamo anche provato per le chiese, quando c'era l'Inquisizione. Dentro le chiese. Aspetta, c'erano le sedi. Mi sta telefonando il medico. Sì, scusami. Chiamo il medico che magari ti serve. Sì, no, non mi sono arrabbiato, scusami, soltanto no, un momento. No, ma non sono incazzato neanche io, però... No, sto parlando col medico che mi ha telefonato. Ah, ok, perfetto. Va bene, ha ragione Enrico, con la tua logica dovremmo abbattere qualsiasi cosa sia stato luogo di tragedia, eccetera, eccetera. No, qualsiasi simbolo di tragedia. Di morte. Ma non che cazzo me ne frega del pellegrinaggio di morte? Ci saranno quattro cazzoni che vanno alla casa di Hitler, alla casa di Mussolini, chi se ne frega, meglio, portano soldi, spendono soldi per cazzate, per fare i viaggi, pagano i treni, spendono per i gadget, spendono per i ristoranti, va benissimo, ottimo, stupendo, restino nelle loro tombe a onorare i loro morti. Una cosa è chi se ne frega. Francesco, Firenze, vai. Pronto, Cruciani, mi senti? Dimmi, quanto godo. Senti. Io godo veramente per questa cosa qui. Io avrei da dire due cose. Dimmi, Francesco. Allora, prima di tutto avete aggredito quel povero signore Taormina, ieri non l'avete fatto esprimere. Beh, insomma, non l'abbiamo fatto esprimere, mi sembra... E poi, mi sembra... senti, questa pornografia per dare incisione alle opinioni, e non mi sembra il caso, cioè... Ma non ho capito qual è la pornografia, spiegami. Ma la tua è pornografia. La tua è pornografia. La tua è pornografia. Pornografia spicciola. Ma la tua è pornografia. La tua è pornografia. Anche riguardo alla laurea di Renzo Bossi e Giannino, che lavora presso il Sole 24 Ore, è un laureato fasullo anche lui. Beh, ma perché su non questo non c'è dubbio. Crociani, io non l'ho detto. Sei soltanto di parte anche te. Ciao, a presto. Francesco, amico mio, forse non ti ricordi qualche anno fa quello che è successo. Non mi pare che abbiamo nascosto nulla in questa trasmissione sulle sventure del signor Oscar Giannino. Dopodiché, le persone... hanno avuto il loro percorso, eccetera, e chi se ne frega poi. Cioè, tutti sanno quello che devono sapere. Lui ha detto scusa, ha chiesto scusa, sta lì, conduce, fa, eccetera, lavora. Che vuoi fare? Lo vuoi impiccare? Lo vuoi tagliare la testa? Che vuoi fare con Giannino? A dopo, dai. Pronto, il manicomio? Ah no, è la zanzara. Vabbè, dai, è uguale. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Zanzara. Messaggio per il nostro califfo David al-Baghdadi. Dopo la casa di Hitler e la tomba di Mussolini, stiamo preparando come radere al suolo le piramidi di Giza, simbolo dell'oppressione del razzismo egizio. Quei quattro beduini al Cairo non potranno più fare soldi sulla sofferenza altrui. Così ti vogliamo, David. Livello culturale di riferimento, Isis a Palmira. Parenzo, ma come cazzo fai a dire che bisogna buttare giù la casa di Mussolini o quella di Hitler? Sinceramente a me non me ne fotto un cazzo di destra o sinistra, che cosa, ma sarebbe come dire buttiamo giù il Colosseo perché lì ci sono stati sterminati i cristiani. Ma stiamo scherzando, è una cosa storica. Sai, proprio non lo so io da dove vieni esatto. Sabato io vado in ferie, vado a Riccione, a ritorno mi fermo a Predappio. E Parenzo mi fa buttare giù la casa del duce? Ma io ti spacco il culo, ti spacco! Parenzo! Parenzo e Predappio stanno come l'Isis a Palmira. Gli hanno buttato giù ogni cosa e così farebbe lui. Mamma mia. Parenzo, adesso abbattiamo la Mecca perché ci vanno in pellegrinaggio un sacco di dinamitardi islamici. Ma sei proprio un deficiente, sei. Ora ti assicuro, caro Davide, che non ne ho trovato uno a tuo favore. Non allora, ne ho trovato uno a tuo favore. Io non mi devo candidare a nessuna elezione. No, è appunto, no, ma te lo dico, non però ho trovato nulla. Mi piace segnalare, respiro profondamente perché il medico mi ha prescritto di non urlare. Cosa ti ha prescritto? Mi piace segnalare che questi miserabili del pensiero, pigmei del pensiero. Ma che pigmei? Gente libera, gente libera. Nani del pensiero, non hanno capito che cosa ho detto. Primo, ho commentato una notizia del governo austriaco. Ma questo lo sanno tutti, ma no, questo lo sanno tutti, dai. Ho detto, per evitare che questi luoghi diventino luoghi di commemorazioni neonaziste o neofasciste. Ma chi se ne frega? Hai detto che il governo nazista, sì, il governo nazista, il governo austriaco ha fatto benissimo, fa benissimo a voler abbattere la casa di Hitler. E lo stesso dovrebbe avvenire per le cose di Predappio. Trasformare Predappio in un grande museo, ma dove ci vanno non i nostalgici a fare i loro riti neofascisti. Se ciò non avviene, cioè se non si trasforma quello in un museo. Ah sì, allora meglio abbattere, meglio abbattere. Ma assolutamente sì. Ma dai, ma te lo dico con la serenità. Ma sì, ma appunto la serenità. Senza urlare, sì. E voglio anche dire a questi: io veramente, dammi un aiutami un aggettivo per trovare per alcuni che chiamo, non tutti, sì, per sì. Alcuni, aiutami a trovare un aggettivo. Scimmie non è troppo, ma no, ma è gente libera, gente normale che esprime le proprie idee, che ti critica perché giustamente ti paragona all'ISIS. Ti paragona all'ISIS. Una persona che prende il telefono, no, fa l'800 è normalissima, Zanzarosi, no, è gente normalissima. Quella gente lì che chiama e lascia quei messaggi immondi nella sua cabina telefonica, anziché abbracciare la propria moglie, accarezzare il cane. Ma che c'è? Magari lo fanno pure, no? No, non lo fanno. Prendersi un aperitivo con un amico, vabbè, fare due chiacchiere, leggere un libro, guardare la televisione, capito? Questa gente qua che invece prende il telefono e dice minchiate. Ma che minchiate? Ma inenarrabili, inenarrabili. Non è gente normale. Vabbè, non è gente. Non è neanche gente che io una volta, guarda, ero qui ieri mattina, stavo camminando qui per strada, uno fa io ascolto sempre, dico bravo, lei l'ascolto, no, ogni tanto anche chiamo e ho lasciato, lo diceva timido perché si vergognava, io ho lasciato anche un messaggio in segreteria contro lei, dico beh bravo cretino, dice no, ma lo diceva tutto sottovoce perché si vergognava, ma che si vergognava. Ragazzi, non lo state a sentire. sempre messaggi contro di me, contro Parenzo, potete dire quello che volete. Ovviamente non possiamo andare in onda tutto perché altrimenti ci chiudono dopo due giorni Radio Parolaccia di Radio Radio. radicale. Però, a proposito, ma in paradiso, vogliamo fare il collegamento col paradiso? Perché fra poco in Parlamento verrà discussa una legge sulla legalizzazione della cannabis. Collegamento dal paradiso, Marco Pannella! Abbiamo radicato. Sto qui discutendo con un signore che continua a dire non si può fumare. Gli ho detto, ma che fu? È uno che si chiama signore. Ho detto, ma guarda, signore, io... e come dice signore? Che non si può fumare. Come allora, il signore? Scusa, sarà il signore, sarà Gesù Cristo. Il signore, vabbè, allora che si chiama signore. Allora qui intanto abbiamo abolito con un referendum i cherubini, noi non servono i cherubini, questi angeli che inutilmente partitocratici giravano. Cioè gli angeli erano divisi tra i partiti? Sì, li abbiamo aboliti perché erano figli del sistema partitocratico eletti. Come li hai aboliti gli angeli, scusa? Con un referendum non è venuto a votare nessuno. Ma comunque in 20 giorni fatto il referendum. In 20 giorni siamo riusciti a fare quello che non siamo riusciti a fare in 60 anni di attività parlamentare e politica. Cioè abolire la partitocrazia degli angeli. Abbiamo abolito i cherubini, stiamo abolendo ora il paradiso, l'inferno e il purgatorio, una minchiata che non serve assolutamente a nulla, perché se in Italia c'è il bipartito, c'è la Camera e il Senato, qui ce n'erano tre, legiferavano in tre cioè luoghi. Ho capito, questo è interessante, c'era paradiso, inferno, purgatorio e paradiso. Bravissimo, abbiamo abolito questo sistema immondo. Ma com'è? Abolito, abolito un sistema che non serve a nulla. Tre, inferno, purgatorio, Camera e Senato è già tanto. Inferno, purgatorio e paradiso. La cosa difficile è la coltivazione della marijuana. Questo volevo sapere. Sì, no, perché ci sono tutte queste nuvole e nuvolette, e c'è questo signore che ogni tanto arriva e dice: guarda, caro Marco, mi chiama per nome, qui non si potrebbe fumare, come ti chiama, qui Marco? Comando io, dice lui. E io ho detto: no, non comandi tu, bisogna decidere in modo popolare se comandi tu. E lui dice: guarda che sono 1000 anni e passa che se l'ho fatto tutto io qua. È una situazione terribile perché è praticamente vuole comandare lui. Il eletto signore, da dice. Chi? Ma si chiama, si è eletto, e ho detto: da chi sei stato eletto? Croce, Pasolini, siamo tutti qua, tutti insieme, con Pierpaolo, con Benedetto. Ah, incontrato Pierpaolo? Tu, sì, come no, Pierpaolo. Ma è d'accordo? Stiamo candidando nelle liste radicali transnazionali. Si chiama transnazionale, transpartito, infatti. E vi dico che qui comunque stiamo facendo delle riforme importanti. Vabbè, strutturali. Vabbè. Grazie Pannella, grazie. Vabbè ragazzi, dove andiamo? A Luca, Bologna, vai Luca. Luca, dimmi. Allora, bisogna liberare Mancini, ragazzi. È un prigioniero politico, non c'è altro da dire. Non esageriamo, ragazzi. Mancini, no, dai, prigioniero. Giuseppe, cazzo, ma Luca, hai visto come... Dai, no, amico adesso... mio, adesso prigioniero politico. Alla fine ma prigioniero politico, dai, in senso alto, ma è una cosa peggiore. Allora, Giuseppe, da quello che sappiamo, ha fatto due cose sbagliate. Primo, ha detto scimmia africana, vattene in Africa. Prima cosa. Seconda cosa, comunque, qualcosa nella rissa ha fatto, perché questo qua è caduto, è morto, adesso che sia morto per il pugno. Certo. E allora, amico mio, prigioniero politico. No, perché ma io... lo storytelling di questo. No, no, lo storytelling è una parola che non voglio sentire. Scusami, allora, ti mando a fare in culo. Io non voglio sentire in questa trasmissione uno che mi dice storytelling. Ma come? No, è una parola orrenda che voglio abolire, che la gente non conosce. Però va al mondo, va avanti con sta. Io guarda, ti raccontano le cose. Ti vorrei veramente. No? Allora utilizzi un'altra espressione. Io la parola storytelling non la voglio sentire, chiaro? Chiaro, il racconto di Emmanuel era semplicemente sempre il povero immigrato scappato da Boko Haram, brava. Le cose si sapevano fin dall'inizio, cioè non l'hanno mai detto. No, ragazzi, le cose si sapevano in parte perché le abbiamo raccontate noi. Bravi, le avete raccontate, ma nessuno vi ha cagato nei telegiornali. Le ha raccontate in parte il giorno, in parte noi, qualcun altro molto isolato. E poi siamo stati spernacchiati perché quella dai vari Saviano e altri scrittori e cazzi buffi, eccetera, i quali sanno solo dire razzismo, di razzismo e basta. Questo, e andate a fare in culo, questo è il punto. Non stanno più ragionando perché per loro sono loro i veri razzisti, perché per ma loro è un peluche, te lo vedono negretto, è un peluche, non è una persona. Vabbè, però da qui a dire, da qui a dire, da qui a dire che questo signore è un prigioniero politico, qui ce ne passa però, adesso va bene che questi stronzi sono spernacchiati perché alla fine le cose escono fuori e comunque una rissa c'è stata e secondo la stessa vedova è stata lei insieme al marito, anzi è stato il marito purtroppo morto, a prendere quel palo e a tirarlo addosso a quel signore che gli ha dato della scimmia. Però non è che sia prigioniero politico, per me in galera deve restare. Le motivazioni per cui resta in galera sono ridicole, perché non è la presenza di molti immigrati a fermo che va bene, questo non lo stabiliamo noi, la reiterazione che si chiama GIP, cioè giudice delle indagini preliminari, e io lo contesto, che ha firmato e motivato un provvedimento sbagliato, secondo me, democrazia, sbagliatissimo, secondo me, secondo le motivazioni sbagliatissimo, perché la reiterazione del reato in questo caso lo sai benissimo anche tu, non avrà, esiste. Sì, certamente avrà evidentemente i suoi elementi per dirlo, io non li ho in questo va bene momento. Luca, allora secondo te è prigioniero politico? Luca, che ha passato e parla, pronto, che è prigioniero politico, non ho capito, è prigioniero politico allora? Ma sì, ma ragazzi, ma rimani in chance per una motivazione ridicola. Io dico una cosa, noi giustifichiamo il rispondere con le mani a un insulto, no? Perché a me sembra che David Parenzo e l'espressione del parentino sia quello che se ti viene il ladro in casa tu non gli puoi sparare, perché fino a prova contraria, no? Ma chi l'ha detto mai tu giustifichi, questo? Dimmi una cosa, tu giustifichi l'aggressione fisica in risposta a un'aggressione anche becera, come ma io brutta, non giustifico come mai la violenza, ma quando mai allora, mai devi giustificare la violenza? Allora sciocco, non deve stare in galera perché i primi dai, su, ragiona sciocco, che ne buttassi via tre soldi iscrivendo sia giurisprudenza anche se non ti sei laureato, sciocco, quindi le sai queste cose, sei uno sciocchino, ma uno dai, sciocchino, vedi Giuseppe, è questo che a me mi fa girare il sangue, a me non me ne frega, non sono razzista, a me guarda sono uno a culo col mondo. Come sei? Okay, come sei? A culo col mondo. Io è bella questa espressione, a culo col mondo, che vuol dire? Ho lavorato, ho avuto a che fare con le nigeriane per tanti anni, non con le nigeriane, che vuol dire nigeriane? Io ho fatto il capotreno 7 anni. Beh, sui treni regionali. A culo col mondo che intendi? Cioè uno che conosce il mondo? No, tranquillo, cioè non sono né razzista, io sono credibile. Sì, ho capito, sei in pace col mondo. In pace col mondo. Ciao amico mio, ciao, fermo, devo fermarti. La zanzara è il tendone dei fenomeni da baraccone e ripeto, lo dico con amore. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Mi ha molto incuriosito il discorso Natania, sono andato a vedere chi fosse, ma è una topa assurda! Ma adesso che gli devo dire a questo? Pure no, con ma adesso cominciamo col far partire gli avvocati, le lettere... Ma che c'entrano gli avvocati? Dico, ma tu stai scherzando, ma come si fa a evocare un gioiello? Ma non, sporcano, questi si sporcano la bocca col nome della mia compagna, ma non si devono permettere, parlassero delle loro occhie, ma ha detto topa, topa assurda, ma topa... Sventate, scusa... Non si devono... Poi che vanno a vedere su internet, che schifo siete... Ma è normale schifo, che vanno a vedere su internet? Non è normale niente, no. Allora blocca l'accesso. Non c'è nulla di normale in quello che dici, fai, i proseliti, i maiali che crea la radio, non c'è nulla di normale, nulla. Allora comunque, ragazzi, nulla. Vogliono degli avvocati? Schifosi, vabbè. Io tutto in mano agli avvocati. Ma quali avvocati? Tutto, gli avvocati ti rideranno dietro, dai. Tutto in mano agli avvocati, guarda. Allora, alcuni avvocati omosessuali, perché ci sono anche associazioni di avvocati omosessuali, gli stessi, ma non lavorano nello studio del professor Taormina. No, gli stessi che hanno portato in tribunale il professor Taormina, vogliono portare in tribunale pure Gentilini per istigazione all'odio. Ottimo. No, bene. Ragazzi, sì, no, sì, dai. Sì, ma perché ti piacciono queste cose? Oh, fanno finalmente mi hai rallegrato la giornata. A parte guarda, che sono, a parte che sono, è da stamattina che mi mandi dei link, sì, a notizie porno. Beh, cioè, so è tutto il giorno. No, ma sì, non l'hai mai fatto in realtà. No, porno. No, sì, no, mezze no. Porno, uno sulle donne pelose. Tutt'altro, stamattina perché mi ha mandato un link sulle donne pelose. Sì, certo, perché so che sono argomenti sui quali sei maestro. No, ma non me l'hai mai fatto in realtà, non mi hai mai istigato. Ah, sì. No, te mi l'ho hai fatto perché ogni tanto segnalo delle notizie di tuo interesse. Allora, se no, avessi segnalato l'intervista di De Masi al Fatto Quotidiano sulla povertà, mi avresti detto allora, cos'è questa roba. Stamattina, ore, non mi ricordo che ora era, mi arriva un link di Parenzo, Donne pelose alla riscossa. sui social spopola la moda, donne pelose la riscossa. Certo. Ma non è una cosa nuova, tra l'altro, le donne pelose. Che sei, poi, aspetta, poi mi mandi un altro link a un'altra roba sui tradimenti. Certo. Le corna si dichiarano poco. Questo è il Corriere della Sera, però. Il 52% ammette l'infedeltà. Gli italiani sono poco soddisfatti a letto. Corriere della Sera. Vabbè, ragazzi, sta cambiando il mondo. Parenzo mi segnala notizie di sesso. Perché pensa che io non le sappia, ma le so già prima di te. Appunto, sì, esatto, immaginavo. Allora, Gentilini, cosa ha detto per essere portato in tribunale? Cosa ha detto? Bene, li chiamavano culattoni, io sarei per i manganelli e loro di vicino. Risentiamo, perché non c'è nulla di strano, nulla di particolare. No, è Gentilini che parla così. Gentilini, quindi può dire quello che vogliono portare in tribunale, va benissimo. Noi in gergo trevigiano fino dalla gioventù sì. Ci chiamavamo culattoni, adesso forse ci potranno denunciare perché chiamarli gay, bisogna chiamarli omosex, non so che cosa. Questi qua si possono chiamare anche froci o no? Beh, certamente. Io sarei per interventi drastici, hai capito? Interventi magari drastici? Manganelli e olio di rigino ancora, no, ma non che è dice? Più possibile. Da un certo punto di vista, quei gay là, siccome si baciavano anche in pubblico, cioè, se la sono un po' cercata, o no? Quelli di Orlando. Ah, oh, sì, vai. Come si? Beh, ma sai. Se non ci fossero stati quei club, non sarebbe morto nessuno. Se non si fossero baciati. Se invece fare questa ostentazione, ognuno resta con i propri difetti fisici difetti. Nascono dalla nascita, forse. Sì. Forse non sarebbe successo, non c'era necessità di fare i club, non c'era necessità di fare i cortei, eccetera. Cioè, tu dici che hanno provocato, hanno provocato quello che ha sparato questi signori? Sì, certo. C'è gente che lo vuole portare in tribunale per queste parole. Meno male, meno male. Allora, ho promesso al Vichingo un intervento. Allora, caro Vichingo, come stai, Vichingo? Davide, Ravenna, vai. Ciao Vichingo, dimmi. Ricordiamo intanto per cosa è famoso questo cosiddetto Vichingo. Oh, ma che palle, Parenzo. Parliamo di cose serie invece. Vabbè, Davide, perché... Vichingo per la famosa canzone, com'era la canzone Cucca Dance? Com'era? No, io volevo invitare Parenzo il 31 luglio a Predappio, visto che ha parlato a sproposito ieri. Se viene con la sua ruspa e i suoi compagni, è un piacere. Gli farò vedere alcune cose, soprattutto se ci prova. Il 31 luglio lavoro intanto, poi non passo il mio tempo libero con personaggi tipo il Vichingo. Hai fatto una sbrufonata, Parenzo. Io ti rispetto, caro, perché se non ci fossi te, la zanzara non varrebbe niente. Sai perché? Perché proprio la parte sei talmente talmente buonista in senso proprio meschino del termine, che difendi l'indifendibile, che uno ti ascolta, sai, perché col piacere proprio di pensare partiamo dalla BC, perché tutte le opinioni sono uguali, va benissimo, che poi non è neanche vero questo, ma non importa. Comunque, ammettendo che tutte le opinioni hanno lo stesso valore, ammettendo questo, ma posso io, ma ci sono veramente così tanti soldi che mi danno, che mi fanno sì che io parli con un signore che si definisce Vichingo e che ha fatto la cucu dance? Cioè, no, aspetta, che allora, anche dichiara. Fai sentire la cucu dance. No, non mi va. Fai sentire quella. Poniamoci la domanda: quanti soldi vale il mio tempo di dialogare con un signore che si chiama Vichingo? Ecco, questo è il punto. No, vero. Però c'è un'altra cosa. Sostiene anche di essere parente di Mussolini. Sostiene. Io sono parente di Mussolini. Cioè, nipote di chi? Nipote di chi? Spiegami. Da parte di donna Rachele sono pronipoti di Benito Mussolini. Ma non è vero, ma non lo dice nessuno. Stai lordando anche il nome di uno come Mussolini, che io figurati, non è che... Allora, tanto per cominciare... Ma chi lo dice sta cosa che sei il pronipote del Duce? Chi lo dice? Mussolini, perché poveretto, state infangando il suo nome in modo definitivo. Tu devi pensare al tuo Hitler. Tu devi pensare al tuo Hitler. Ma che c'entra Hitler? Tu devi pulire la bocca quando parli di Mussolini, capito? Tu pensa al tuo Hitler. Ti chiami Davide come me, quello è Davide. Non porti rispetto, io non porti rispetto. Ma chi deve portare? Ma chi? Pensa al tuo Hitler, Parenzo. Ma che c'entra prima Hitler? Prima di dire che vuoi spianare la casa di Mussolini, dove è nato, prima di dire che vuoi spianare pubblicamente la tomba del Duce, pensa al tuo Hitler. E se vuoi venire a Predappio, ti dico il 31 luglio. Sì, vabbè, mi trovi, ma Vichingo, scusami, Vichingo. A tanti patrioti. Scusa, okay? Scusami, ti aspetto il 31 Vichingo. Luglio, domenica a Predappio. Vichingo, vieni con la tua uspa e Vichingo, Vichingo, io non, come fai a sostenere di essere il pronipote del Duce? Allora, me lo vuoi spiegare? Qual è il punto? Ma è una baggianata, una colossale cazzata. Augusto Moschi. Augusto Moschi era nipote di primo grado di Benito Mussolini. Nipote quando di... il Duce fu liberato dai tedeschi e portato a Rocca delle Caminate a Predappio, la prima persona che voglio incontrare fu suo nipote Augusto Moschi. Ok, prima cosa. Nipote secondo, di primo grado. Non era solo suo nipote. Augusto non Moschi suo... che parentela ha con te, signor Augusto Moschi? Mio nonno. E tuo nonno, diretto. Tuo nonno da parte di madre? Sì, da parte di mamma, sì. Da parte di mamma. Vabbè, ma qual è sta, pronipote allora, di Mussolini? Nipote di primo grado e non solo nipote, anche persona di fiducia che ha vissuto con Mussolini 10 anni a Villa Bologna a Roma. E allora? Guarda che se Mussolini avesse saputo che nel corso degli anni avrebbe avuto un parente di con nome la, il Vichino. Davide, io mi chiamo Davide, come il re dei giudei. Davide, io mi chiamo Davide come il re dei giudei. Davide, pensa al tuo Hitler e non tirare in ballo mio zio Benito Mussolini, per favore. Perché sennò mi incasso. Ciao Vichingo, ciao Cucciani, ciao. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. La Zanzara. Ciao David. Ore 19:30, arrivo a casa, mi scappa la pipì, corro a cambiarmi, mi tolgo la maglietta, i pantaloni, passo davanti al primo bagno, lo evito, passo davanti al secondo bagno, lo evito, nonostante mi stia scappando, mi dirigo in cucina e appositamente la faccio nel lavandino. Che goduria, siamo al top. Allora ragazzi, ogni tanto mi arrivano delle notizie assurde e ve le propongo anche se sono assurde. Dopo il Vichingo però tutto è possibile, no? Beh, cioè, si può solo risalire. Allora senti, Ivrea, si fingono gay per finire in cella con i transessuali. Atti osceni nelle docce del carcere. A presentare la denuncia è stato un detenuto che avrebbe sorpreso un transessuale brasiliano quarantenne e un uomo di 36 anni in atteggiamenti intimi. La sezione del carcere è stata interdetta agli omosessuali. Io questa cosa qui, secondo me, non è possibile nel concreto. Magari ci sono molti ex detenuti che me la possono raccontare. Si fingevano gay per farsi assegnare al reparto dei transessuali. E devo dire che sono dei geni, eh? Cioè, uno si finge gay per farsi assegnare a un reparto dove ci sono transessuali e consumare rapporti nei bagni del carcere di Ivrea. C'è della genialità. La procura ha aperto un'inchiesta per atti osceni in luogo pubblico. Io dico una cosa mia, ma se fosse così, ma lasciateli scopare in tranquillità in carcere, scusami. Beh, ma dai, su, ma già è complicata la vita in carcere. Si fingono gay per finire in cella con i transessuali. Ottimo. Capito, però magari... ottimo, ma che male fanno? Che male fanno? Nessuno. Ma no, ma non è che si va in un luogo pubblico, non è che ci può mettere lì in cella davanti a tutti, insomma. Scusa, dai, ma che... anche questo qua. Facessero le stanze dell'amore, io l'ho detto tante volte, peraltro. Bisognerebbe costruire dentro il carcere delle stanze dell'amore, delle stanze dove si può fare sesso e dove i detenuti possono farlo. Vittorio! Eccolo! Eccolo qui, come andiamo? Benissimo, mi sono fatto visitare il culo e tutto a posto. Come in visitare il culo, scusami? Ho fatto ormai tutto, mi manca soltanto, ho fatto l'ecografia alla spalla per la radiografia alla spalla per la caduta. Sì. Poi sì. Ho fatto l'analisi del fegato perché quando ero andato a sul lago di Iseo avuto quella colite, come si chiamano? Vabbè, colica. Renale, avevano trovato però delle cose al fegato che andavano studiate. E poi il cuore, No, questo è il primo, poi ho fatto la risonanza magnetica, poi c'era stato il cuore, poi la rottura del braccio che è ancora rotto. Sì. E finalmente oggi ho fatto l'esame del culo e... Cioè, no. Ma che sarebbe la coloscopia in pratica? Coloscopia, che tu conosci. Sì, conosco, non l'ho ancora fatta, devo dire la verità, perché ho un po' paura, perché devi... No, non ti fai niente perché ti fanno una piccola anestesia locale, ma 2 giorni prima devi cominciare a bere un beverone che ti fa cagare 18 volte con degli spruzzi di merda... sembra pura acqua, proprio, sai, quando sì, usi una pompa. Allora tu non è che caghi dei pezzi grossi, caghi un flusso, una specie di sì, frutto, sì, d'acqua, sì, bellissimo, che sì, ti libera completamente, alla fine caghi acqua. Cioè caghi acqua per due giorni in pratica. Beh, meraviglioso, meno, un effetto di svuotamento totale. Svuotamento totale, sì, che ho vissuto tra ieri e oggi. Cioè, ecco, a schizzo. Voglio dirti questo, caro Vittorio, noi in genere facciamo da 6 anni a questa parte, io con Cruciani, la colonscopia all'Italia. Cioè, questa trasmissione è un'evidente colonscopia quotidiana all'Italia. Ecco, sì, questo. Però la colonscopia poi in sé, com'è, dolorosa? Mi dicono di sì, che è un po' dolorosa. Molto. No, il Gretto, che questa volta ha detto una cosa molto saggia, sì, il famoso Gretto, sì, è vero, la coloscopia è quello che viene fuori dall'Italia. No, non ti capita niente, perché dopo 2 giorni di preparazione con questo beverone, sì, arrivi lì, io avevo un'infermiera molto predisposta, ti mettono sì, com'era? Una carina, bionda, ma assolutamente desiderosa di non farti male, sì, ti mettono nel polso un ago per fare questa anestesia, ti fa sentire come un po' ubriaco, sì, e da quel momento, da quando cioè ti mettono sul fianco e ti penetro il culo, non ti accorgi neanche che sta avvenendo, non te ne accorgi, io non ho, mi sono accorto di niente. Bellissimo, cioè praticamente hai fatto l'analisi del culo, in pratica, l'analisi, cioè, del culo, ti hanno, sì, ti hanno un po' aperto. Hai ragione, che piacerà a te, sì. Io sono stato in collegio negli anni 60 ed ero diventato ostitico perché i colleghi, sì, avevano le tasse alla turca, quando mi ruppi la gamba andando a sciare mi diedero un cesso a tasto dove io leggevo i libri di Oscar Mondadori, distrutti a fascicoli per leggere D'Annunzio, Proust, sì, tutto sì, proibito, sì, sì, e finalmente cagavo tranquillo. Quando però sono rientrato nella vita normale sono diventato molto più espansivo, cioè ho perso ogni stitichezza possibile, sì, cioè, quante e volte questo cagli? Mi ha reso felice perché ho cagato tutta la merda che poteva stare dentro di me, finché negli ultimi 2 o 3 anni, sì, era la cosa che mi inquietava, sono arrivato e arrivo in questi giorni ancora a cagare anche 5 volte al giorno. 5 volte al giorno? 5 volte al giorno. Sì, la notte mi sveglio 2 volte per andare al cesso. Poi, quando mi alzo, la faccio, poi al pomeriggio, poi alla sera. Cioè, ma troppo, come mai? Non lo so, pensavo che fosse qualche disturbo. Non ho trovato nulla. Non ti ha trovato niente? Cioè, cago continuamente, ma cago materia solida. Sì. Ed è come cagare gli stronzi che sono così intorno, perché mentre il matrimonio lo puoi evitare, gli stronzi no. Quindi io cago stronzi tutti i giorni. Caghi stronzi tutti, ma in maniera proprio massiccia, diciamo. In maniera massiccia, sì, ma anche 6 volte. Ma, ogni tanto, io avrei fatto una trasmissione da voi. Sì. Oppure poi mi fermo e vado a cagare. Ma questo è un problema, però. Cioè, come lo puoi risolvere? No, perché non ha trovato niente. Cioè, ma come dico, lo puoi risolvere? Cagare è bello, è un po' scomodo, perché sai. Appunto. Non puoi mai dormire, quei bei sonni lunghi di 7 ore non ce li ho mai, perché ogni 2 ore mi alzo per andare in bagno. Quindi è una specie di vigilanza continua. Sì, vabbè. Sì, sì, vabbè, comunque importante, ma com'è? Comunque non ce ne sono male. Devi questa è importante, la coloscopia di Sgarbi, 2 punti, non ho nulla, sono sì, sano come un pesce, no, la cosa importante, devi ogni tanto controllare le feci però, come sono, come sono, anche, la sì, consistenza. Se non l'hai fatta, come sei, se sei così informato? Beh, io mi sono, vi guarda, soprattutto di sulla merda, sì, sulla merda io sono informatissimo, informatissimo. Cioè, informatissimo. Però la cosa che ti voglio chiedere è questa, cioè la Boldrini vuole fare la commissione sull'odio, sì, io vado al manicomio, ti dico subito che vado al manicomio. Ora, una dimmi la verità, una presidente della Camera più inutile di questa io non l'ho mai incontrata. Cioè, beh, la Pivetti contro i bikini anche una volta, la Pivetti, no? Sì, contro le donne che servono a tavola, contro le donne che fanno le pubblicità, sì, eccetera. Cioè, la Pivetti al confronto, la Pivetti era Churchill. Era Churchill. Non c'è dubbio su questo, ragazzi. C'è la commissione sull'odio, ma come era cazzo Thatcher, si fa? No, allora, io l'ho saputo l'altro giorno, lei istituisce una commissione contro l'odio, ho fatto uno, si chiamano Post, credo, che sono molto seguiti, e sì, naturalmente tutti hanno risposto provando che l'idea era scema, perché il diritto all'odio è un diritto nobile. Cioè, c'è l'amore, c'è anche l'odio. Cioè, non è che tu puoi pensare che devi amare Hitler. Come dice giustamente il nostro amico che vuole abbattere nella casa, Hitler deve essere odiato. Allora, se tu non hai il diritto all'odio, non hai neanche il diritto all'amore. Perché è chiaro che tu devi amare le persone che hanno bisogno. Dunque, di te. Dunque non si può eliminare l'odio, diciamo la verità. È ineliminabile. L'odio è conseguenza dell'amore, ma non perché odi e t'amo, perché se c'è qualcuno che tu proteggi è perché qualcuno odiosamente lo maltratta. Ma vai a fare una lezio magistralis alla Camera, insegna qualcosa a questa signora, no, che non capisce. Eliminare, cioè, no, non dobbiamo odiare. Cioè, ma ti pare normale che Sgarbi non è mai stato presidente della Camera, invece la Boldrini è stata presidente della Camera? Sì, no, questo non è doloroso. Ma è questa la cosa inquietante. Cioè, che la Boldrini, solamente perché è stata funzionaria dell'ONU e per essere stata un po' sui giornali e sulle prime pagine dei giornali quando c'erano i profughi che arrivavano, no, è diventata questo, candidata da rifondare, non so chi, da Sel, no, da Vendola, di Bersani, Allora, diventa presidente della Camera e Vittorio Sgarbi non è mai stato presidente della Camera. No, ma Sgarbi è un monumento nazionale. Ma no, tu dimmi se è possibile le cose del genere. Se è normale che l'Italia produca la Boldrini presidente della Camera e Sgarbi che deve andare, deve costretto a cagare sette volte al giorno in giro per l'Italia. Scusami. Sì. No, io tendo a usare la ragione che sia in modo molto facile. Posso dirvi, per esempio, che oggi è capitata una cosa che è capitata, su cui voi dovreste fare una campagna a mio favore. Cioè? Sì. Allora, hanno tolto l'oltraggio, ne parlavamo l'altro giorno. Hanno però fatto il processo per resistenza. Vada bene, io ho passato il varco dell'Expo per 150 volte. Che è successo? L'abbiamo perso. Di nuovo sulla questione dell'Expo dei Carabinieri, l'oltraggio. Alle 9 del mattino, senza nessun problema. Sì. Sono rientrato alle 11 senza aver dormito. E siccome avevo un impegno ufficiale, essendo io pubblico ufficiale, per andare a inaugurare... Vabbè, questo lo sappiamo, mattina, sappiamo tutto, dai. Cioè, la storia è una cosa, è avvenuto che oggi il pubblico ministero, tale Remondini o Rimondini, ha chiesto per me un anno e mezzo. No, un anno e mezzo per essere impedito nell'esercizio della mia... Una cosa così prova che la giustizia in Italia non esiste. E comunque vada a finire, e comunque sia, condanno o non condanna, chiedere un anno e mezzo a uno che di fronte a persone... che gliel'hanno visto mille volte passare, ed è un anno e mezzo, questo non è giustizia. Lui ha detto, ma io quando vado in tribunale mostro sempre il mio badge. Il mio badge, io il badge ce l'ho dovunque, bastava che lo chiedessero, ce l'aveva Francesca, ce l'aveva Moretti, il badge c'era, loro mi hanno volutamente impedito di andare per un'azione loro di resistenza a me, non di mia di resistenza a loro. Ma... l'anno e mezzo è la vergogna dell'Italia. Ma questo Remondini come... Remondini, Tu, signor Remondini, adesso ci ricolleghiamo col signor Remondini, signor Remondini. Fermi tutti, torniamo tra un attimo, fermi tutti, recuperiamo Sgarbi contro Remondini, fermo. Beffa la vita minamara, me sto ascoltando la zanzara. La zanzara. Allora, di nuovo in collegamento con noi Vittorio Sgarbi. Prima la linea è caduta. Oggi hanno chiesto un tale PM che si chiama Remondini un anno e mezzo di condanna per oltraggio, credo, a pubblico ufficiale, una cosa di questo. L'oltraggio è finito. Resistenza. Resistenza, scusa. Che per me era impossibile perché ero in macchina, se mai dovevo essere l'autista. Ma c'è una cosa inaudita. Io ho fatto la mia denuncia ai carabinieri di Trento e naturalmente dalla mia non si è parlato perché loro hanno ostacolato me, non io loro. Loro hanno impedito a me di andare all'inaugurazione e sono orgoglioso che uno abbia un tale odio per me da chiedere non una soluzione, una condanna, una multa, ma un anno e mezzo. È lo stesso che aveva voluto ricusare Clementina Forleo. Sono questi magistrati che non danno il senso della vera. Ma perché giustizia. Ha chiesto un anno e mezzo per... Perché i carabinieri sentivano ferito il loro onore, non sull'oltraggio, perché io avevo detto all'autista che volevo andare lì. Allora, vabbè, hai detto anche ai carabinieri fascisti, non fate un cazzo dalla mattina alla sera. L'hanno risolto, l'oltraggio è finito. Però abbiamo pagato i famosi 10.000 euro. Rimane la resistenza, che vuol dire che io... a cui avevano aperto il cancello loro e stavano davanti a me per impedirmi di andare via, resistevo con le parole. Che io non posso inaugurare una mostra fatta da me per cui ho lavorato fino alle 9 di questa mattina e non permettetemi di avere questo metodo fascista. Ma dovresti andare in galera, secondo me. Ma sarebbe sarai giudice. Però l'idea no, ma sarebbe straordinario, un anno e mezzo per aver cercato di andare a lavorare. Quando aspettavano il prefetto, il commissario Sala, ora sindaco, e il ministro Martina, che hanno ritardato per colpa loro perché io non potevo passare. Ma di qualcosa a questo Remondini, non ti dico niente, sono orgoglioso che uno come lui abbia scelto questa mia condanna perché la prova che in questa richiesta lui mi vuol far pagare qualcos'altro. Ti odierà. Quello che vuole, benissimo. Però la misura della cosa... non contrappesata dalla mia denuncia, dico che io sono stato impedito di fare una cosa che avevo sempre fatto, andando addirittura con la moglie del prefetto che era entrata con me, senza che nessuno ci fermasse, devi spiegare la Lazio. Qua uno mi scrive, un ascoltatore, non te lo metti in onda, sennò poi ti incazzi troppo, ti viene batticuore, eccetera. Un ascoltatore mi scrive, stia zitto Sgarbi, perché non si possono offendere i carabinieri dicendogli fascisti. Ma non li ho mai offesi, non ho mai offeso nessun carabiniere. Fascista è un metodo, ho detto il vostro metodo è fascista. La polizia, d'altra parte, è sempre fascista, per quelli contro cui si contrappone. Quindi lui comunque, è non conosce la dialettica. La parola fascista vuol dire un'autorità irragionevole. Un altro mi scrive, un altro mi scrive, non te lo metto in onda anche questo, un altro mi scrive, aspetta, fammi ritrovare il messaggio, basta, Sgarbi condannato, non si può sentire. Che cazzo c'entra che è condannato? Cosa c'entra? C'è un'altra... No, non sono condannato alla fine, ma dico, la misura è questa. Tu vai a fare il tuo dovere, per una cosa per cui sei chiamato, per una situazione ufficiale, per cui c'erano dentro tutti quelli che sapevano che c'era, e impedisci al curatore, che deve essere il primo interlocutore di questa inaugurazione, di entrare. Un anno e mezzo. Quando è uscito 2 ore prima, per quanto questi non abbiano il cervello, vogliono ragionare al fatto che questo è un metodo totalmente autoritario che chiede la carta anche a suo padre. Ma chi non se ha... tu al controllo degli aerei vedi tuo padre, gli chiedi documenti... Ma chi non ha il cervello, allora, i carabinieri? La logica di questa irrazionalità ti fa incazzare come ogni altra cosa, come la richiesta di un anno e mezzo. A uno poi ci potrebbero essere dei sosia di Sgarbi però in giro, Sì, certo, no, infatti io. No, ma che ne so. Si sono fatti fotografare con me, fatto selfie tutti i tempi che ero andatore, comunque te l'ho già spiegata, ma lì non è che io ho ragione, per questo è già tutto, io andrò avanti finché non pagheranno loro. Sì, e pagheranno loro per avermi impedito una funzione pubblica. Presenza del commissario. Senti, ma su Provenzano non vogliamo dire nulla, su Provenzano. No, su Provenzano, beh, la cosa che possiamo dire è questa. Sì. La misericordia divina sì. non è che stabilisce i buoni e i cattivi. Mm. Ora, l'idea che un questore, altra figura di un'Italia fascista, impedisca i funerali sì. è una cosa impressionante. Dopo il caso Casa Monica, il funerale di Provenzano, che io credo sarebbe stato assolutamente low profile, come quello di ogni mafioso che si rispetti, il quale non deve aspettare nulla, è stato impedito per ragioni di ordine pubblico. Sì. Allora, benissimo, è uno che è un criminale, però il diritto alla pietà di un morto, il cui corpo non può fare più niente, è un diritto cristiano. E il questore che lo impedisce, non impedisce la, come dire, la esaltazione, impedisce il perdono divino. Mm. E se noi siamo cristiani, vale perfino comunque, per Provenzano. Anche, la punizione degli uomini, di Dio il perdono, il funerale di un prete... Non è che dice io non do la benedizione a questo perché è un malato. Benissimo. Allora possiamo saltare. Però i funerali, tu dici, non sarebbero stati uno scandalo per nessuno, non sarebbe stata un'offesa per nessuno. Perché mentre quelli di Casa Monica, non essendo di un mafioso, erano un circo divertente e l'ha fatto passare per mafia, quello di Provenzano andava sperimentato, sarebbe stato un funerale con 20 persone. Sì, forse nemmeno. Perché avrebbero tenuto. Anche il sindaco, ha detto non ci saranno esegui, eccetera. Sì, il sindaco di Corleone. Questo è ridicolo perché sono le forme di antimafia che si esercitano contro i morti. Sì. L'antimafia l'ha fatta contro i vivi. Contro le pale eoliche, contro la violenza al paesaggio, non contro i morti. I morti, pace sepultis, non sono. Non è che tu non fai i funerali di Napoleone, cioè, ma che cazzo di ragionamento è? No, ma infatti il funerale, a me non me ne frega niente del funerale, appunto. Però impedirlo mi sembra di Dio, non l'avrei impedito. Appunto. Fate i funerali e chi se ne frega. Come i funerali, che ne so, di come si chiama, di Priebke, ma facessero i funerali, ma tranquillamente, ma chi se ne frega. Ma poi l'ordine pubblico prevede che ci siano dei passi tali che vanno al funerale per manifestare solidarietà con Provenzano. No, si chiama pietà. Ma dove è andato quello a cagare? È andato a cagare, Parenzo è andato a cagare, pensate, è andato in bagno a cagare. Alle 20:05 è andato a cagare stavolta. Preso la purga. Ma no, ma perché dopo deve andare alla 7 in onda? Deve andare a fare il cretino là. Va a fare il gretto. Sì, no, va a fare il gretto, va a fare lì questo programma, va bene, perché però prima deve andare in bagno a cagare alle 20:05, va bene. Comunque tu spero che sei a favore del mantenimento della casa di Hitler, della casa di Mussolini, eccetera. Ecco, su quello che avevamo parlato prima quando mi hai chiamato. Bisogna dire che la casa di Mussolini è un meraviglioso appuntamento turistico, non per il folklore mussoliniano, perché si racconta una pagina di storia di un uomo. Quella di Hitler era ancora di più, perché è come andare ad Auschwitz. Ad Auschwitz tu vedi il male che ha fatto Hitler e lì vedi la casa dove è nato il male. Ma certo, quando vai lì. Il diritto all'odio parte dalla casa. Ma poi chi se ne frega se ci vanno i nazisti? Chi se ne frega se ci vanno i nazisti? Ma ci andranno 4 nazisti a fare 4 cose là davanti? Chi se ne fotte? Ma tutti gli altri non sono nazisti, ma persone che vanno. Io ci andrei se io andassi da quelle parti lì, forse non ci andrei apposta, ma se io andassi da quelle parti, tranquillamente andrei a visitare la casa di Hitler. Sarebbe straordinario. La casa dove è nato. Dove è nato l'orrore? Uno va a vediamo dove è cresciuto da bambino il mostro e vai lì a vedere il letto dove è cresciuto il mostro. Che senso ha abbattere? Certo che gli austriaci qualche volta ho pensato sono veramente dei coglioni, ma che gliene frega di 4 stronzi neonazisti che vanno lì. Il meccanismo è più complesso, dovendo farsi perdonare Hitler, a parte vogliono vendere una casa che non è loro, perché la signora che la possiede non la vende. E quindi se potessimo comprarla, dicono, la distruggeremmo, comprarla per distruggerla. Mentre invece l'attrattiva turistica, quale che sia, se soltanto portasse le persone ad andare in 10 ristoranti e in 10 bar, renderebbe assolutamente innocuo e benefico il fatto che uno è andato per coltivare in sé l'odio, che non vuole per Hitler, l'odio per Hitler è giusto, l'odio degli ebrei che li hanno inseguiti è giusto, perché quando inseguivano gli ultimi criminali nazista, come Fritzke, provavano odio, l'odio è lecito. Nel libro di Zicoli, si ostra la cover, si rivolge a Dio, sì, c'è l'odio per i nazisti. Allora mi dicono, è un sentimento nobile. Certo, mi dicono che nel TG3 delle 19 di oggi, dopo aver cavalcato nei giorni scorsi la notizia dell'ultra di destra razzista Fermo, il TG3 ha omesso la ritrattazione della testimonianza della moglie circa le circostanze dell'aggressione. Allora, questa roba qua, ragazzi, è vergognosa. Allora, a me non me ne frega niente, razzismo o non razzismo. Noi abbiamo dato tutto quello che bisognava dare, comprese le testimonianze. Non mi rompete i coglioni, non mi rompete i coglioni. Se il TG3 ha omesso questa cosa qui, ha fatto malissimo. C'è stata la ritrattazione, pare, in parte della vedova, va benissimo. Il palo l'ha preso Emmanuel. Il giudice e le indagini decideranno chi ha iniziato per primo, chi ha iniziato dopo, ma le cose bisogna dirle, perché se non si dicono le cose, uno... La cosa che tu stai dicendo è bella, perché siccome le cose sono sempre delle bandiere, è meravigliosa l'immagine di questo ragazzo sul palco di 5 Stelle. Sì, è stato con 5 Stelle, allora, sì, con 5 Stelle. Quello sì. È meraviglioso, perché se uno deve partecipare, non è un neonazista, è un 5 Stelle. Difenda Grillo, risponda Grillo per lui. Allora, a questo punto è chiaro, sì. Che c'è, questo è meraviglioso. Sì, sì, sul palco c'è, è stato con 5 Stelle, sì. Questo non è che noi non dobbiamo colpire, se le cose hanno un valore simbolico... Senti, se c'è uno che ti vuole insultare sui carabinieri, te lo passo? Te lo passo? Sei in grado di reggere? Te lo passo, va. Te lo passo un attimo. Giorgio, aspetta, te lo passo. Giorgio, dimmi, che vuoi dire a Vittorio? Sì, buonasera. Ma non è che voglia dire cose particolari, sono assolutamente... alibito, perché insomma non è possibile dare dei fascisti alle forze dell'ordine, cioè, ma è una cosa allucinante, ma come si permette? Io non ho parole. Dare dei fascisti alle forze dell'ordine, ma si rende conto cosa ha detto? Mi rendo conto che quello che hanno detto tutti gli studenti, si vede che non hanno eletto Pasolini. Ma non è possibile, lei si permette troppo. Un ragazzo che è morto, hanno picchiato un ragazzo che è morto, sono fascisti. Capita, ma come stesso. Si permette? Quelli, ma stiamo parlando di forze dello Stato, sono fascisti. Questa gente muore per noi, e lei si permette di dire sta roba lei qua? Lei è ignorante come una capra. Quelli che hanno, ma non vada sempre, non vada sempre su queste solite cose, fascisti. sempre sono la capra, lei è ignorante come una capra. La polizia che picchia è fascista, è un dato oggettivo. Questo è offensivo per gente che muore per difenderci. Certo. Muoiono anche lei offende. Muoiono, no, lei offende, no. I morti che sono stati uccisi. No, io non mi permetto, lei che si dovrebbe vergognare. Lei è un personaggio pubblico. Ridicolo dell'arma, perché non avrebbe... Dipende cosa fanno. Lei non può permettersi di dire queste cose. Io come cittadino libero sono... Di non usare il cervello. Lei deve provare a usare il cervello, ricollegarlo. Ma perché si... Scusa, Giorgio. Perché si mette a offendere in questo modo? Poi io non offendo niente, fascista non è affatto, ho detto i metodi fascisti sono quelli delle persone che in modo autoritario e senza rispetto impediscono a qualcuno di essere libero. Ma guardi, queste sono delle teorie, no, io guardi, non lo so. No, sono dei fatti, sono dei fatti. Ma lei non può, ma le stiamo parlando di cose diverse. Se la ricordo la caserma, la scuola Diaz, se la ricorda o no? Il G8 se lo ricorda? Sono stati condannati i poliziotti perché picchiato. Pochi. Guardi, visto che lei la butta, guardi, io sono una persona che io sono partito molto tranquillo, lei si è scaldato, non si... No, mi scaldo perché lei dice le cose, sono cronaca. Il metodo fascista di alcuni poliziotti è stato condannato da magistrati senza... Però non riguardavano quei poliziotti lì, non riguardavano. Sa cosa le dico, guardi, lei non fa cazzo dalla mattina alla sera, visto che si mette su questo piano. Lei non fa un cazzo da mattina a sera e si permette poi di dare dei fascisti alla forza dell'ordine. Si dovrebbe vergognare. Io faccio, che deve vergognare lei di parlare di quello che non fa. Adesso Giorgio, non si può dire. Giorgio, lei è un ignorante incapace. Ecco. Giorgio, non puoi dire che cazzo c'entra. Guarda che ti sei sbagliato, Giorgio. Cioè, non è che a parte che Sgarbi lavora dalla mattina alla sera, ma il punto è un altro. Ha detto ai carabinieri che... Tutta idiota, lavori lei come lavoro io e impari a difendere l'Italia, impari a difendere ma Ma come ne sa lei cosa lavoro io, cosa faccio se io? Non si capisce da quello che dice, perché non sa neanche cos'è la caserma Diaz, non sa nulla, non sa le condanne dei poliziotti per aver picchiato gli studenti. Io non so solo che mi sento offeso se uno mi dà dei fascisti alle forze dell'ordine, perché non si fa. Io non ho dato dei fascisti a nessuno. Non ha altro da fare da mattina alla sera, questo è chiaro. Lei non ha altro da fare se non dire stupidaggini senza essere informato di nulla. Basta lei Giorgio, basta Giorgio, cioè, basta Giorgio. Tutto e io non so nulla. Lei sa sempre totalmente fallito nella sua vita. Ma che cavolo ne sa lei se io sono fallito? Ma che fai nella vita, Giorgio? Che fai nella vita, Giorgio? È uno strumento, cosa fa? Nulla fa, che deve fare? Va bene, ma ciao. Ma che chi l'ha detto? Vittorio, Vittorio, ciao, ti saluto, un abbraccio. Lei ciao, l'ha detto ciao. Di me, lo dico di lei. Ciao, di Vittorio. Non so nulla, sono soltanto che ignorante. Ciao, Vittorio. Ignorante come una capra. Ciao, Vittorio, grazie, ciao, ciao, ciao, ciao. Cruciani, ascoltandoti ho capito finalmente il concetto di utile idiota. La zanzara. Maxime? Ah no, la zanzara? Eh no, stavolta non va bene per niente, volevo il Maxime, cazzo, eh. Pronto? È il bordello? Ah no, è la zanzara. Vabbè, uguale, uguale. Allora ragazzi, a grande richiesta, Paco, spada di fuoco, sapete spada di fuoco da dove viene? Sì, Paco, spada di fuoco, l'ascoltatore senegalese che ha chiamato con la moglie senegalese, che ha messo incinta una, che poi non gli fa vedere il figlio, una che è della grande famiglia dei testimoni di Geova. Allora, Paco da Belluno, soprannominato dal sottoscritto, la spada de fuoco, spada de fuoco dal film di Carlo Verdone. Però io c'ero abbastanza sicuro, cioè anzi no, ero sicurissimo, proprio perché lui mi difendeva proprio con la lunghissima spada di fuoco. Questo stava lì con uno che dice che esceva la spada di fuoco. Basta, ma non vado avanti, non volevo andare avanti con sto disgraziato. Dai Ruggè, voglio lo sapesse e famo la mucchiata. Va bene, Paco Belluno, vai, Paco Belluno. Ciao Cruciani. Dimmi chi è Paco? Yeah. Paco da Belluno. Ah, quello che è nigeriano, il nigeriano quello che ha messo incinta l'italiana. La no, allora, no, senegalese, sì, scusa. Ascolta Cruciani, io l'altro giorno, come che io ti avevo raccontato che io ho avuto una bambina con una testimone di Geova, io che sono musulmano. Ma testimone di Geova lo dici tu adesso? Tu, io non... E tu? No, era testimone di Geova. E tu che hai so? Avuto dubbi, no? Come che dubbi? Se me lo racconti alla radio, che ne so, magari è una cazzata. Aspetta. No, per quella, per confermartelo, no. Come che l'altro giorno ho sentito uno da Belluno che si chiama Giuseppe mi pare che ha chiamato da Belluno, no? Se hai qualcuno da Belluno me le metti in contatto, io gli faccio vedere, gli faccio controllare. Questa non ti fa vedere il bambino, come funziona la cosa? No, ma perché non me lo fanno vedere? Perché allora il discorso era questo, no? Cioè io l'ho visto, siamo incontrate tre volte. Sì. Poi dopo, con chi? Con una ragazza. L'hai messa incinta? Ecco, l'ho messa incinta, sì. Io non lo sapevo neanche. Vabbè, non lo sapevi, che vuol dire dopo, non lo sapevi? Se non usi il preservativo, amico, perché usi il preservativo, Paco? Sì, hai ragione. Ma che sei una bestia? Ragione, usa il preservativo, no? Sì, ma è incredibile, purtroppo quelle volte non l'ho usato e mi è costato caro. Tu con sta spada di fuoco che c'hai, come diceva, con sta spada di fuoco. Quale spada di fuoco? Sì, cioè, questo c'è una spada di fuoco. Nah, detto, ho sbagliato, però Cruciani, sai cosa vuol dire? Cioè, guarda, star male, sapendo che a 7 km qua ho una bambina che è nata il 24 Ma è mulatta, ma è sicuro che tu è mulatta? Per forza, è mulatta? Per forza. È nera, mulatta, c'ha un po' è di... Mulatta. Ma perché questo di cazzo, no? Chi? Questi razzisti di merda, no? Ma perché uno come me non mi beccano mai a dirmi del negro? Ah, tu dici, se l'avessero detto a me, scimmia. Ma io non me le dice mai nessuno, perché mi guardano, perché ti ho detto che io sono 1,90 e 100 kg. E per questo c'è la spada di fuoco. Cazzo. Allora loro guardano bene chi devono offendere, chi lo offendano. Let them run the re-election. Grazie. Io non lo chiedo, ma adesso tu c'hai una moglie nera adesso, Paco? Sì, sì, come no. Ah, come già no. È vero, non mi ricordo più niente. Io sono l'Alzheimer. È qua con me. Passami tua moglie un attimo, scusa. È qua con me. Passami un secondo, come si chiama tua moglie? Mia moglie si chiama Mamita. Come si chiama? Mamita. Passami Mamita. Mamita. Aspetta, Mamita. Te la passo. Passami Mamita, sì. Pronto? Ciao Mamita, ciao pa. Ciao Luciani. Ciao tesoro. L'amico del mio marito. Mamita. Sempre senegalese, pure te? Sì, io sono senegalese. Sei senegalese. Se a te ti dicono per strada scimmia africana, vattene, che fai tu? Purtroppo non mi è mai capitato. Perché purtroppo? Scusa, no, per fortuna, dicevo. È una fortuna, non mi è mai capitato. E se ti capita che fai? Io non rispondo. Non rispondo, vai avanti. Io so che sono davanti a un ignorante. Senti Mamita, ma Paco c'ha la spada di fuoco o no? È vero che c'ha la spada di fuoco o no, Paco? No, guarda, Paco non uccide neanche una mosca. Lo so, ma sempre la spada di fuoco c'ha. Vabbè, ciao Mamita, ciao tesoro. Ciao. Però io ero abbastanza sicuro, ero sicurissimo. Proprio perché lui mi difendeva proprio con una lunghissima spada di fuoco. Questo stava lì con uno che dice che c'era la spada di fuoco! Basta, ma non vado avanti, non volevo andare avanti con questo disgraziato! Dai, Ruggè, voglio sapere se stavo la mucchiata. Allora ragazzi, abbiamo Marco da Palermo, Giovanni dalla provincia di Roma, Giovanni da Torino, Luigi da Milano. Restate lì, fermi, perché Parenzo, prima che te ne vai, voglio chiamare una signora. Perché la notizia di oggi l'abbiamo un po' trascurata, è il fatto di oggi, in realtà di ieri, insomma di questi giorni, alcuni deputati hanno presentato un disegno di legge per multare i clienti delle prostitute. I clienti delle prostitute, lasciamo perdere i sindaci che già lo fanno, i clienti delle prostitute multati per legge. Multe da 2.500 a 10.000 euro e addirittura il carcere. Il carcere, l'ha presentata una deputata del Partito Democratico, Caterina Bini, la quale ha ricevuto però una mail anonima in cui c'è scritto: siamo in 9 milioni, perderete il nostro appoggio. Beh, amici miei, scatenatevi, mail, telefonate, puttaniere di tutta Italia, unitevi, impedite a questa legge di passare. Io chiamerei, caro David, questa signora, Caterina Bini, Partito Democratico, vuole multare i clienti delle prostitute? Pronto? Onorevole? Sì? Sono Parenzo, Radio 24, buonasera. Volevo complimentarmi per la sua proposta. Grazie. Per combattere questi miserabili che fanno commercio di carne umana. Io da anni alla Zanzara parlo di questo e finalmente c'è qualcuno che ha trasformato, non per merito mio ovviamente, che ha trasformato questa cosa in una proposta parlamentare. Bisogna punire questi schifosi. Neppure per merito mio, per la verità, perché devo dire che questa cosa viene molto dal mondo dell'associazionismo. Io mi sono fatta tramite di un lavoro che è stato fatto. Ma tecnicamente, cosa nel merito proprio, come si puniscono questi qui che vanno a prostitute? Si puniscono con una multa da 2.500 a 10.000 euro e in caso di reiterazione di reato anche con la reclusione fino a un anno, oppure con i servizi sociali in caso uno si renda disponibile a volerli svolgere. No, volevo dire che bisognerebbe chiamare la legge contro, per punire i miserabili, perché chi fa uso di carne umana, chi fa tratta di carne umana è un miserabile. Assolutamente, io penso, diciamo, che le prostitute in larga parte siano delle vittime, certo. Delle vittime di tratta, di sfruttamento. Ieri in conferenza stampa, quando abbiamo presentato la legge, è venuta una di queste ragazze e ha raccontato la sua storia, una storia veramente impressionante. David, sì. con chi parli? Scusa, mi sono arrivato, adesso. È Cruciani, sì, buonasera. Ha fatto buonasera, disegno di legge straordinario. Salve, buonasera. Ma non ho capito bene, perché volete colpire i clienti? Beh, cioè, la prostituzione non si può eliminare. Lo sfruttamento, la tratta, comunque sono cose che non riesci a eliminare. Beh, ma per quello c'è la polizia, mi scusi. C'è la polizia, ma comunque è difficile da questo punto di vista riuscire ad eliminarla integralmente. Ma io non riesco a capire perché modello... uno, se non è libero, perché uno non può essere libero di andare a prostitute, cioè perché uno non può essere libero di pagare qualcuno per sesso. Ovviamente, ovviamente poi un'altra cosa è lo sfruttamento, ma non è che uno può sapere, scusi, lei è sfruttata, sì, oppure lo fa volontariamente. Appunto, il problema è questo, è che è difficilissimo riuscire poi a distinguere, perché ad oggi il nostro sistema legislativo punisce soltanto lo sfruttamento. Ho capito, ma perché considerare le persone che vanno a prostitute dei reietti, delle persone da punire? Sono delle persone che hanno dei, che hanno voglia di andare a prostitute, no, punto. No, semplicemente noi partiamo da un altro presupposto, dal fatto che la donna non fa mai liberamente questo mestiere, che come si dice è il mestiere più antico del mondo. In realtà nel 70% dei casi sono donne sfruttate, ma e nel restante numero dei casi sono comunque persone che lo fanno per motivi di povertà e di altro genere. Beh, certamente uno lo fa per i soldi, su questo la domanda. Ma non si può colpire la domanda, ma colpire la domanda significa semplicemente spostare il problema, tanto ci sarà sempre la prostituzione, cioè esisterà sempre, cioè dove non c'è prostituzione, mi scusi se glielo dico, io esagero forse, ma dove non c'è prostituzione non c'è democrazia. Non direi, perché infatti questo modello dove è stato adottato l'ha ridotta drasticamente, l'ha adottata anche la Francia, non mi pare ufficialmente, che la magari sia un paese democratico. Ma scusi Albini, ma è vero che avete ricevuto delle mail dicendo siamo in 9 milioni, perderete il nostro appoggio? Sì. Ma chi l'ha scritta questa mail? È una lettera anonima, non lo so. C'è cioè una mail anonima? Una mail. Meglio perdere 9 milioni di sfruttatori e guadagnare la gente. Ragazzi, per bene, come se uno avesse i voti della camorra, è uguale. Ma no, ma non dire, sì, ma non dire stupidate. E come i voti, certo, chi sfrutta la prostituzione, come i voti della camorra, è un criminale. Ma io che vado a prostitute, io non ci vado, io sono andato qualche volta solamente in posti legali in Svizzera. Domani chiamo un escort per telefono, ci sono, lei sa che la prostituzione non è solo quella per strada, no? Ci sono dei numeri di telefono, miliardi di numeri di telefono su internet, chiamo una di queste qua, che cosa sono? Sto sfruttando qualcosa? Che cosa faccio? Sì. Ma cosa ne sa lei se sta sfruttando qualcosa? Non lo so io, ma non lo sa neppure lei se quella donna veramente è libera o se quella donna è sfruttata. Io conosco un sacco di prostitute libere. Cioè, e come fa a saperlo? Ma perché sono libere? Lei se sono sfruttate? Cioè, io ho parlato con tante di queste ragazze, sono andata in strada a parlare con loro e le posso dire che ci hanno detto in modo chiaro che evidentemente se uno glielo chiede non lo dicono. Cioè addirittura si può arrivare al carcere, mi sembra. Si può arrivare al carcere. Cioè incarcerare i clienti delle prostitute. Ah, in caso di reiterazione di reato. Vabbè, ma ho capito, ma ragazzi, ma io veramente... Ma cioè, è una proposta di legge, ha detto lei, giustamente siamo in un paese democratico. No, per carità, ma infatti... Ottima, dovete andare avanti senza paura, perché... Io vado avanti, poi non certo, è detto chi che... Va prostitute, farà, però, chi va a prostitute deve avere il terrore, chi va a prostitute deve avere il terrore, perché deve cioè, sapere lei, voi volete voi volete terrorizzare i clienti? Ma bisogna, ma certo, diminuire l'unico modo... Onorevole, volete terrorizzare i clienti? Sì, io non voglio terrorizzare i clienti, io voglio che sia chiaro che questa è una cosa che non va bene. Un'ultima cosa le voglio dire, io spero che, questo io lo dico proprio dal cuore, io spero che saranno tanti, lei può dare la sua mail? Sì, è quella della camera, bini_c@lacamera.it. Bene, io spero che moltissime persone che si oppongono a questa cosa sommergano la sua mail, mi dispiace ma io la penso così. Ma lo spero anch'io, non ci sono problemi, che si oppongono, è loro libertà. Che si oppongono a questa cosa qua che è antidemocratica e antilibertaria. È loro libertà. Grazie, arrivederci. Brava, avanti tutta. Pronto Radio Cloaca Massima? Hai la zanzara? Vabbè, uguale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. E ci si diverte a bestia qui alla Zanzara, cari amici miei, 800 24 00 24, oppure i vostri messaggi vocali su WhatsApp 393 71 71 701. Siamo veramente al top. Cruciani, sono a Monaco di Baviera, all'HB, la birreria dove facevi discorsi Adolf Hitler. Sto ascoltando il podcast della Zanzara alla seconda birra e ho già voglia di invadere la Polonia. Siamo al top. Se dovessi trovarmi in fin di vita, vi prego, ed ho bisogno di sangue, vi scongiuro, non iniettatemi il sangue della Boldrini, preferisco crepare. Vabbè, non esageriamo, dai, su, le solite esagerazioni, il sangue della Boldrini. Comunque prima mi diceva Sgarbi nell'intervallo che mi ha richiamato che la proposta di legge là di quella del PD per multare i clienti delle prostitute già lo fanno i sindaci per raccattare qualche soldo e per fare qualche pubblicità al loro comune e per dire quattro cazzate agli elettori. Ci si mette pure il Parlamento con queste leggi inutili, da 2.500 euro a 10.000 euro di multa per i clienti delle prostitute e in più forse il carcere per la recidiva se non c'è un percorso con i servizi sociali. I servizi sociali per i clienti delle prostitute, ma come cazzo si fa a pensare una cosa di questo tipo in Parlamento, a discutere di queste cazzate? Mi diceva giustamente Sgarbi che aveva incontrato delle persone addirittura che andavano a 10.000 euro a botta, 5.000 euro a botta. Ma è normale, gente autonoma che quei soldi non li guadagnerebbe mai in un altro modo. Mi parlava anche di una del 92, di una signora che lui proteggeva a Via Veneto e che guadagnava 60 milioni al mese. 60 milioni al mese. Comunque ribadisco quello che ho detto io: dove non c'è prostituzione non c'è democrazia, basta moralismi, basta cazzate. Prostituzione legale, libera, i clienti non vanno toccati, non vanno toccati. Sommergete, qual è la mail di questa qua, la mail di questo deputato inutile del PD? Ripetetemi la mail, tagliatemi quel pezzetto con la mail. Sommergete di mail questa signora, non toccateci le prostitute, non toccate i clienti, non toccate questo mercato, legalizzatelo al massimo. L'altro giorno l'Agenzia delle Entrate se l'è presa con una di Savona, credo, che guadagna non so quanto, 3.000 euro al mese, ha trovato dei conti 3.000 euro al mese. Sono andati a rompere i coglioni a una che guadagna 3.000 euro al mese per fare la battona e vogliono farli pagare le tasse a questa qua. Capito? Vogliono fare pagare le tasse a una che guadagna 3-4 mila euro al mese. Prima fate la legge e poi si pagano le tasse. Non, no, si presume che, eccetera, eccetera. Telese! Peppino! Io spero. Legalizzate e poi tassate. Prima legalizzate, non poi tasse. Se non sono legale, non devo pagare. Giusto? No, ma perfetto, perfetto. E che ne dici? E gli dai pure i contributi e gli dai pure la pensione minima. Vabbè, la pensione adesso, la pensione certo, con i contributi, certo, con i contributi non c'è dubbio. Pagano. Senti Luca, ma hai sentito le ultime notizie da Fermo? Hai sentito le ultime notizie da Fermo? Cosa dicono, caro Luca? Tu e la tua prosopopea sul razzismo, ma su Mancini, le ultime notizie da le ultime notizie da Fermo è che adesso la vedova ha ritrattato la sua versione perché forse ha paura di essere accusata di calunnia. Non parlo bene italiano, eccetera, eccetera. E dice che il palo l'ha preso suo marito e la rissa, sostanzialmente, i primi colpi pare siano partiti da loro. Adesso non cambia nulla, naturalmente, l'insulto razzista, quello è morto, per carità. Però le cose bisogna dirle tutte, tutte. E che cosa bisogna dire? Quello che abbiamo già detto. Che è stata una rissa, e che non è necessario prendere da un odioso insulto razzista. Vabbè, capito, se ti dicono telese di merda, tu reagisci, prendi un palo? Se le cose sono andate così. Se mi dicono negro e sono di colore, mi arrabbio. Ti arrabbi, ma che fai? Pigli un palo? A mia moglie e la vogliono insultare, io mi arrabbio. Che fai? Ma forse un palo glielo do sulla testa. Ah, se dicono puttana gli dai un palo sulla testa. Beh, se galera. Un violento mi aggredisce. No, ti aggredisce. Che vuol dire ti aggredisce? Se un violento aggredisce mia moglie, io prendo e gli spacco la testa. Ma che vuol dire? Ma se uno ti dice brutta puttana a tua moglie, che fai? Ti spacchi la testa? Invece tu fatelo dire sì, contento. Ma che stai dicendo? Tu te lo fai dire contento? Che stai dicendo? Stai sragionando. Tu tra Parenzo e Haider. Ma che? Ma quale? Ma che c'entra Parenzo e Borghezio? Ma che dici? Se insultano, poi dici sei un cretino, basta. Che è una prostituta, vuol dire che ti vogliono aggredire, amico mio, sveglia. Sì, vuol dire che ti vogliono aggredire, ma in quale mondo? Ma sì, in quale mondo? Dai, in qualunque mondo, dai. Lo sai. Ha fatto bene. Ha fatto bene a reagire se ti dicono, sua moglie scimmia, ma vattene a casa. Ma un razzista violento. Ma che, a parte che quello frequentava i 5 Stelle, era sul palco dei 5 Stelle. Ma un razzista violento con 5 DASPO inibito allo stadio, quindi non stiamo parlando di una. Comunque la mail, ragazzi, della deputata del PD, puttanieri di tutta Italia, gente amante della libertà, puttane di tutta Italia, unitevi e mandate mail di protesta per questo disegno di legge. Bini _ sto cazzo di mail che c'hanno questi, non c'hanno una mail normale. Bini _ bini-c, caterina-c, chiocciolacamera.it. Per ma carità, fammi capire, se insultano la tua donna tu sei contento? Cioè se la postrofano dando della ma prostituta non per detto che sono contento, a parte non le hanno, non le hanno dato della prostituta, ora, non le hanno dato la prostituta ma, quella. Molto peggio, ma se glielo danno tu che fai? Sei contento? Porgi l'altra guancia? Non ho capito questa cosa. Dimmi, ma che vuol dire? Ma non è che reagisco prendendo un palo, della, un palo per strada? Ma certo che può reagire, poi si assume la responsabilità della reazione. Si assume la responsabilità della reazione, abbi pazienza. E poverino è morto, più responsabilità di così. No, ma certo, ma lascia perdere poi le dinamiche della morte. Ha pagato caro, ha pagato caro. Va bene, allora, Luigi da Milano, vai Luigi. Ma chi c'è, pure Enrico con te? È qui, sì, siamo in che barca, dice Enrico? Venezia. Che dice Enrico? Soffre il mal di mare in questo momento, poverino, è molto affitto. Soffre Enrico, mal di mare. Puoi salutare Giuseppe? Enrico? Come andiamo? Ciao Enrico, ciao Enrico. Luigi non vuole fare gaffe come l'anno scorso. Luigi, vai, Luigi, Milano. Luigi. Volevo dare un suggerimento a Sgarbi. Dimmi, invece dimmi. Di usare dei beveroni strani per fare tutto quello che ha fatto, colonoscopia e via, che usi un bel idrocolonterapia, in modo tale che così si pulisce veramente bene, perché i problemi che ha sono dovuti a quel beverone lì che ha fatto. Ma che vuol dire? Beverone lo fai per la colonoscopia? È la colonoscopia, però l'idrocolonterapia ti vai a pulire completamente la parte dove vai a fare la colonoscopia. Sono no, ho capito, spiegami bene, che perché vuoi dare un consiglio? Ha fatto quello che gli hanno consigliato i medici, ha fatto la famosa colonoscopia. Sì, ho capito, però è un vecchio metodo, invece lui deve usare dei nuovi metodi, in modo tale che così ha meno problemi. Invece qual è il nuovo metodo? Tu sei un medico? Beh, no, non sono un medico assolutamente, conosco come si chiama tecnica. Idrocolonterapia. Idrocolonterapia. E a che serve la idrocolonterapia? Beh, pulisce direttamente il colon, in modo tale che qualsiasi problema che tu puoi avere lo puoi fare e puoi. Ma secondo te perché va tecnica. Perché secondo te, come ci ha raccontato, va a cagare continuamente? Beh, quello è il problema. Mi sembra proprio che debba fare un po' di idrocolonterapia in modo tale almeno. Mi sembri esperto, però. Mi sembri molto esperto no, di questo. No, esperto no, però la conosco abbastanza bene come tecnica, che è una tecnica estremamente, diciamo, puntuale per i problemi che ognuno di noi può avere. Va nell'ambito del proprio Giovanni colon. Torino, idrocolonterapia per Sgarbi. Vittorio, se ci stai ascoltando, dice questo che dovresti fare la idrocolonterapia. Giovanni Torino, vai. Giovanni, dimmi. Ciao Giuseppe. Vai, ciao. Dimmi. Giovanni. Allora, intanto, devo salutare Paolino e Davide, due drogati di Zanzara, perché ti sentono, sono gente che... Salutiamo questi qua. Che urina in doccia, quindi è gente come noi. Quindi come, vabbè, gente come, che urina in doccia, adesso non è che... Come noi. No, comunque, vabbè, gente che urina in doccia. Non ti tirare indietro. No, vabbè. Ma io urino in doccia, però non è che esiste il club degli urinatori in doccia. Però, cioè... Va bene. Paolino e Davide sono come noi, e quindi, Paolino e Davide, chi sono questi qua? Paolino. Sono due ragazzi, due amici di Torino, che sono... Ti ascolteranno domani. Che anni hanno questi? Siamo sui 46, 47, 48. Vabbè, ma siamo lì. Siete vecchi, ragazzi. Vabbè, così. Senti una cosa. Vabbè, che vuoi, Giovanni? Io ti volevo proporre una cosa importante. Non ho più sentito parlare, o forse non ho perso qualcosa, della tua cosa anale. Come si chiama? Cosa? La verginità anale. Ecco, sì, ma è una storia vecchia, ragazzi. Nessuno ha offerto, offerto 200.000. Che devo fare? Aspetta, siccome io sono il. Che dici, Luca? Che dici? No, acqua. Acqua si era proposto, sì, si era proposto il signor Acqua. No, in realtà era stata una proposta di cara. Adesso tu hai fatto il nome, come al solito. Non avevamo mai rivelato. No, ma una sera Urbano Kaira ha detto: guarda, ti offro, se vuoi possiamo mettere in campo questi 200.000 euro, però poi scelgo io. E ha detto: ti faccio inchiappettare dal signor Acqua, che era un giocatore del Torino, pare molto prestante. Vabbè, allora Giovanni? Te l'ho detto io, perché ti ho chiamato un giorno e ti ho detto che Afri Acqua è il tuo incubo, perché questo qua è veramente... Cioè, altro che la ma io non ho capito di... perché mi stai rimbangando questa storia alle 20:45 no, di metà luglio. Ti spiego una cosa, io domani vado a Bormio a vedere il Toro in ritiro. Ma chi se ne frega? Vado lì perché lì c'è Afri e se lo becco davanti, foglio il telefono, così gli parli e mettete d'accordo, almeno vediamo un po' com'è la situazione, se per caso. Vabbè, ma amico mio, deve mollare 200.000 sempre però, cioè, ci sono sempre lì è Urbano che deve pagare, non è Afri. Afri fa il movimento e Urbano deve pagare. Vabbè Giovanni, ciao. Marco Palermo, vai, anzi no, c'è chi c'è qua? Salvatore da Lucca, che dici? No, Fabrizio da Milano, vai. Vai, Fabrizio, vai. Ciao. Ciao, dimmi. Senti? Vai, veloce, vai. Sì, Ma io volevo solo intervenire per dire che secondo me queste leggi contro l'odio razziale, anche quella lì di cui parlano, le aggravanti dell'odio razziale nel caso dell'omicidio, sono leggi assolutamente fascistissime, che dovrebbero togliere immediatamente. Cosa dovrebbero togliere? Non ho capito. Queste leggi fasciste, ripeto, quella di chi incita all'odio razziale è reato. Chi incita all'odio razziale è reato. Ma ci sono... No, anche per me l'aggravante per odio razziale non ha senso, cioè se tu commetti un reato, commetti un reato, cioè se insulti qualcuno... Esattamente, cioè lo Stato dovrebbe punire l'azione. Se dici brutto ebreo di merda, Hitler doveva mandarti nei forni, c'è l'aggravante per odio razziale, diciamo. Ho capito, ma che senso ha? Ma ha un senso storico, uno potrebbe dire ha un senso storico. Ma cosa c'è? Ma le leggi non si fanno. Allora uno dovrebbe dire anche se vabbè, se... ma torna nel Terzo Reich e saresti benissimo. Non ha senso. Dice Telese di tornare nel Terzo Reich. Eh no, è proprio da lì che voglio uscire invece. Cioè queste leggi, quelle che puniscono il mio pensiero. Cioè, lui dice che anche i comunisti, per esempio, se tu dici a qualcuno no, cioè anche sul comunismo potrebbe funzionare una cosa di questo tipo, perché non c'è invece? Cioè anche il comunismo è responsabile di milioni di morti, no? Ma qualunque cosa, cioè lì il pensiero di questo signore è così, diciamo, deteriorato che può stare bene all'età della pietra con uno che gli dà una clava sulla testa o nel Terzo Reich con qualcuno che lo manda. Vabbè, ma non è così, dai. Così si diverte. Come rispondi? Come rispondi? Ma che è esattamente il contrario. Ma che è esattamente il contrario. Nei forni, ti mandano nei forni così. Franco da Roma, Franco da Roma, vai Franco. Buonasera Cruciani, sono Franco. Volevo ritornare sul discorso delle signore, delle prostitute che ci aiutano in tanti momenti difficili della nostra vita. Vai a Zoccole pure tu? Io qualche volta ci sono andata, ahimè, però con scarsi risultati perché probabilmente non riesco a... Non ti tira? Sì, mi capita, quel resto va tutto bene. Ma come mai? Non ho idea, non me lo spiego. Ma da quanto tempo non ti tira? No, a me mi tira la grande, solo con loro non so il perché. E allora che cavolo ci fa dalle mignotte se non ti tira con le mignotte? Di solito è il contrario. No, ho trovato ultimamente qualcuna che invece va benissimo perché... Cioè qualcuna di che? Di puttana o di persona, diciamo, che non fa la puttana? Sì, no, che fa questo lavoro. Che però, cioè adesso, Telese, questa teoria è bizzarra, cioè lui va dalle mignotte e non li tira con le mignotte... Esatto. Ci siamo? No, beh, ci siamo. Di solito è il contrario, uno va con le mignotte proprio perché no, perché è frettoloso, magari manca il momento, quell'empatia, quell'attimo. Vabbè, ma te credo, una mignotta. Che devo fare? Quello è il mio... Ma io non è tanto mignotta empatica. Sì, no, ma il problema è la domanda che... Sì, è vero, c'è la mignotta partecipante, diciamo, partecipativa. A meno che fa finta e ti aiuta, magari abbordata in modo diverso, in un locale. Vabbè, allora Franco? No, vabbè, la domanda in realtà, quella deputata del PD, volevo chiedere la differenza che c'era tra affittare per 9 mesi un utero e qualche minuto una vagina. No, ma la tua provocazione è assolutamente... Perché? Che c'è, Telese? No, non l'avevo vista questo punto di vista. Beh, è ben posto. L'utero in affitto... Ma noi siamo per l'utero in affitto, quindi siamo anche appunto, per l'affitto di altre parti del corpo. Io sono assolutamente a favore dell'utero in affitto. Siamo coerenti. E sono a favore della legalizzazione della prostituzione. No, sai perché tutto questo nasce dal fatto che Parenzo considera Franco un miserabile? Adesso Parenzo non c'è, ma considera chi va a prostitute un miserabile. E non lo so, perché c'ha questo atteggiamento moralista di considerare miserabile chi va a puttane, cioè, perché secondo lui bisognerebbe distinguere tra gente sfruttata, gente non sfruttata. È una vecchia questione che ci trasciniamo ormai da anni qui alla Zanzara e che non si risolverà mai. L'unica cosa sicura, tolto lo sfruttamento, l'unica cosa sicura è che bisogna fare una grande battaglia da parte di chi ama la libertà contro queste assurde leggi che ci propongono, in cui vogliono punire chi va a prostitute da 2.500 a 10.000 euro e addirittura in alcuni casi il carcere per chi va a prostitute, libertà assoluta di andare a prostitute, nessuno tocchi i puttanieri, come nessuno tocchi i gayino, nessuno tocchi i puttanieri. A domani, ciao Cruciani. Ma va suca, voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh? Radio 24. La passione si sente.